Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, anche oggi con voi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri e della cultura. Gli incontri di Voci in scena. L'intervista di oggi è di Alessandra Tedesco. A 48 anni e quando si presenta in pubblico lo fa spesso con un enorme cappello nero. È belga, ma è cresciuta in Giappone, paese al quale è rimasta fortemente legata. Lei è Amélie Nothomb, scrittrice di culto a livello internazionale. Scrive brevi romanzi, uno all'anno, tradotti in molte lingue. Fra i suoi titoli, Stupore e tremori, Igiene dell'assassino, Metafisica dei tubi, Cosmetica del nemico. Il suo ultimo romanzo si intitola La nostalgia felice, pubblicato in Italia come gli altri da Voland, con la traduzione di Monica Capuani. Racconta il suo ritorno in Giappone a distanza di parecchi anni. L'occasione, spiega, è data dal fatto che una TV francese vuole girare un documentario. Senza questa scusa, forse non sarebbe tornata nel paese che tanto ama. Il perché ce lo spiega la stessa Amélie Nothomb. Parce que c'est terriblement dangereux de retourner sur les lieux de son enfance et de sa jeunesse, surtout quand c'était merveilleux quand on était enfant et jeune. Beh, perché è molto pericoloso tornare nei luoghi della propria infanzia e della propria giovinezza, soprattutto se i ricordi di questi luoghi sono meravigliosi. Il rischio è che quel posto sia irriconoscibile, degradato, e l'altro rischio è che pur essendo il luogo rimasto intatto, tu stesso sia diventato irriconoscibile e degradato, e tutto ciò rende il ricordo indegno. È questo il pericolo. Donc c'est beaucoup trop dangereux de retourner sur les lieux de sa jeunesse. Dal punto di vista proprio architettonico dei luoghi della tua infanzia, ci sono stati appunto molti cambiamenti, sia per il terremoto di Kobe del 95, sia per il devastante terremoto del 2011, quello che tutti ci ricordiamo come Fukushima. Che impressione ti ha fatto rivedere per esempio la tua casa, che adesso non esiste più, la tua casa dell'infanzia, oppure la tua scuola giapponese che frequentavi all'epoca? Alors, retrouver la maison qui n'existe plus, l'avoir transformée en une autre, ça donne l'impression d'une amputation. Ritrovare la propria casa che non esiste più, trasformata in un palazzo, dà un po' la sensazione di un'amputazione. La casa della mia infanzia faceva parte del mio cuore ed è come se all'improvviso ne fossi stata privata quasi senza accorgermene. La cosa è molto destabilizzante perché ci si ritrova con la paura di non poter più ritrovare il ricordo dell'infanzia. Poi invece, quando sono tornata in Europa, mi sono resa conto che quel ricordo c'era ancora ed era intatto. Questo per quanto riguarda la casa. Invece, per quanto riguarda la scuola, quando sono ritornata alla scuola dove ho trascorso la mia infanzia, ho scoperto che incredibilmente non era cambiata affatto. Il terremoto di Kobe non l'aveva intaccata, era assolutamente uguale. Però l'ho vista per la prima volta in modo diverso. Ad esempio, mi sono accorta che era una scuola cattolica, cosa che io non avevo mai saputo, e che all'entrata c'era una statua della Vergine che io non avevo mai notato. Pensavo fosse la statua di una donna. Non avevo capito che i miei genitori mi avevano messo in una scuola cattolica. All'entrée, mais je savais pas que c'était la Vierge, je pensais que c'était une dame, enfin. Donc j'ai compris que mes parents m'avaient mise à une école catholique et j'avais pas compris. In questo viaggio di ritorno in Giappone ci sono anche degli incontri umani molto, molto importanti e molto intensi. Quello con l'ex fidanzato e quello con la tata. Partiamo da quest'ultimo, perché io l'ho trovato un incontro veramente molto commovente. Tu stessa dici che è stato un momento in cui hai pianto, cosa che normalmente, insomma, anche i giapponesi sono restii a manifestare i sentimenti. Tu stessa dice: forse io sono giapponese nel momento stesso in cui mi irrigidisco prima di mostrare le mie emozioni forti. Perché quell'incontro ti ha così destabilizzata? Parce que le plus grand choc de ma vie, ce qui a probablement été le choc fondateur qui a fait de moi la personne que je suis, ça a été d'être arrachée au bras de ma nonno giapponese che te ma mère, c'était ma perché mère. Dover lasciare la mia tata giapponese è stato lo shock più grande della mia vita, il cataclisma fondante di ciò che sono diventata oggi. Lei è stata la mia mamma giapponese. Io ho avuto due madri, una giapponese e una belga, e sono stata strappata dalle braccia della mia mamma giapponese quando avevo 5 anni. E poi l'ho ritrovata, 40 anni dopo. L'avevo lasciata che io ero una bambina e lei una giovane donna, e l'ho ritrovata che lei era una vecchia signora. Cioè, non era vecchia, aveva 60 anni, però era consumata dalla vita. Aveva lavorato tutta la sua vita. Viveva sola e abbandonata in un palazzo popolare alla periferia di Kyoto. Ed è stato scioccante. La timidezza e la rigidità giapponese, quando ci siamo ritrovate, sono sparite in 10 minuti. Ci siamo abbracciate e mi sono accorta che quella donna che mi sembrava tanto grande era invece molto piccola e minuta. E lei si è lasciata andare senza riserve. Mi ha mostrato tutto l'amore che anche lei provava per me. Così sono scoppiata in lacrime. Elle m'aimait vraiment. Elle a pu renoncer à cette réserve japonaise pour me montrer qu'elle m'aimait vraiment. Donc c'est vrai que ce moment-là est un moment rien que d'y penser, je pleure tout de suite. In questo romanzo La nostalgia felice c'è anche l'incontro appunto con il tuo ex fidanzato giapponese. Avevi parlato della vostra relazione in un altro romanzo, né di Eva né di Adamo, in cui si mettevano in evidenza anche le differenze culturali che c'erano fra voi e l'incontro fra due modi di pensare, in alcuni casi uguali, in altri diversi. Come lui ha vissuto il fatto che tu abbia raccontato poi pubblicamente, e il libro sia anche diventato un libro di successo, la vostra storia? Précisément, cette scène est racontée dans La nostalgie heureuse. Il y a la scène où je retrouve le fiancé. Questa scena è raccontata esplicitamente nel mio libro La nostalgia felice, dove ritrovo il mio fidanzato. E la giornalista gli chiede di fronte a me: che cosa hai provato quando hai letto né di Eva né di Adamo? E in quel momento mi si è stretto lo stomaco e ho pensato che la risposta sarebbe stata terribile. Ma lui ha invece risposto in modo piuttosto ambiguo: ha detto, è una finzione. Un romanzo molto bello. Beh, ho pensato io, va bene, non mi sembra una catastrofe, ma mi sono chiesta, perché dice che è una finzione? In fondo sono stata davvero fidanzata con lui, abbiamo avuto una storia di 2 anni. Però è vero, la stessa storia d'amore raccontata 20 anni dopo da 2 persone diverse può dare origine a 2 storie diverse. Quindi deve aver letto il mio libro come una finzione e per fortuna l'ha trovato gradevole. Donc il avait dû lire ce livre en effet come una fiction, e Dio merci, l'ha trovata charmante. Tu parli spesso, non solo in questo romanzo, ma anche in altri, del tuo distacco dal Giappone come proprio uno strappo profondo, una lacerazione profonda. Perché allora non sei mai tornata a vivere in Giappone? E come ora i giapponesi ti vedono? Lo ricordiamo che dopo aver scritto, pubblicato Stupore e Tremori, insomma, non hanno pubblicato altri tuoi romanzi perché si erano visti dipinti in un modo in cui probabilmente loro non si riconoscevano, invece adesso hanno ripreso, insomma, a tradurre i tuoi romanzi. Le Japon è toujours le pays au monde que j'aime le plus. C'est mon plus grand amour terrestre. Il Giappone è il paese che amo di più in assoluto. È il mio più grande amore terreno. Però non è un amore facile da vivere. Ho provato a viverci e a lavorare lì e si è rivelata una catastrofe. Ho provato anche l'amore in Giappone e quello non è stato male, però è stato anche molto difficile. C'era sempre questo sentimento di imbarazzo, questo strano sentimento, bello ma allo stesso tempo per nulla confortevole, che non può durare a lungo. E se tornassi in Giappone lo proverei di nuovo, quindi preferisco vivere il mio amore per il Giappone a distanza. Lo amo moltissimo, ma dalla Francia, dal Belgio, perché in fondo i nostri paesi sono più comodi per vivere. Je crois que c'est pour ça que finalement je préfère vivre cet amour de loin. J'aime tout autant le Japon en vivant en France et en Belgique, mais sans éprouver cette gêne. Nos pays d'Europe sont quand même des pays plus confortables à vivre. Questo libro si intitola La nostalgia felice, lo stesso titolo ce l'ha appunto in francese, insomma è lo stesso significato. Tu dici anche che la nostalgia in senso occidentale, per come la intendiamo noi occidentali, è quasi un sentimento brutto, insomma da evitare. Tu come lo vivi? Je viens de découvrir la nostalgie heureuse. j'ai découvert ce sentiment quand je suis retournée pour la dernière fois au Japon au printemps 2012. La nostalgia felice l'ho appena scoperta, proprio tornando in Giappone nella primavera del 2012. Prima avevo sperimentato, senza saperlo, solo la nostalgia occidentale, quella fatta di disperazione, lacrime, il passato che non può tornare, terribile. E pensavo che chiunque provasse questo tipo di nostalgia, anche in Giappone, perché conoscevo la parola Natsukashi, che è un vocabolo molto comune nella lingua giapponese e rappresenta un valore. Durante quel viaggio del 2012, ogni volta che parlavo in francese, in inglese o anche quando cercavo di esprimermi in giapponese, usavo sempre la parola Natsukashi. Ma l'interprete giapponese, quando traduceva, al posto di Natsukashi, usava sempre la parola Nostalgic. E io mi chiedevo, ma chi è questo interprete che non sa tradurre? Perché non dice quello che ho detto io? Allora a un certo punto l'ho ripreso e gli ho chiesto, ma perché usi la parola nostalgic quando io ho detto invece Natsukashi? E lui mi ha risposto, beh, perché non sono affatto la stessa cosa. Ogni volta che lei usa la parola Natsukashi ha un'espressione disperata e dunque non può essere Natsukashi. Deve essere nostalgic. E mi ha spiegato così il concetto di nostalgia felice. E io ho capito che per anni avevo pensato che Natsukashi fosse la traduzione del nostro concetto di nostalgia. E mi ero completamente sbagliata. Per anni avevo pensato al passato con una nostalgia triste. Ma dovevo ricominciare tutto e scoprire questo modo diverso di ricordare il passato con gioia. Ed ero una debuttante nel sentimento di nostalgia felice. È talmente più intelligente. Uno pensa al passato non per disperarsi, ma per essere felice che siano avvenute quelle cose. La nostalgia heureuse, ça consiste a pensare au bon souvenir du passé, non pas pour s'en désespérer, mais pour se féliciter qu'ils aient existé. Questo romanzo è un po' un, come dire, un reportage intimo, insomma, del tuo rapporto col Giappone, del tuo ritorno in Giappone. Spesso nei tuoi libri ci sono delle situazioni strane, grottesche, dei personaggi estremi. Perché ti piace così tanto mettere nei romanzi queste personalità borderline? O comunque succedono delle cose insolite? Parce que la réalité est comme ça, parce que ces personnages borderline existent, parce que tout ça c'est la réalité. Perché la realtà è così. Le persone borderline esistono. La realtà non è normale, non ci sono persone normali. Guardi il mio editore italiano che è qui. Non è normale. Valentina, l'interprete, non è normale. Tutto il mondo è così. E io sono come gli altri. Tout le monde est borderline. Je suis comme tout le monde. Voilà. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena. L'appuntamento è domani alla stessa ora.